La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato alle Olimpiadi di Roma del 1960. Ospite ai nostri microfoni lo storico Vittorio Vidotto, professore di storia contemporanea all'Università di Roma La Sapienza, autore, tra gli altri, del libro Roma Contemporanea, pubblicato dalla Terza. Nel 2013 il Comitato Olimpico Internazionale deciderà a quale città assegnare le Olimpiadi del 2020. Per l'Italia al momento sono in lizza Roma e Venezia. Se una delle due città italiane la spunterà, si metterà in moto un lungo percorso che potrebbe offrire l'occasione per un'accelerazione dello sviluppo nel nostro paese. Un po' come avvenne 50 anni fa con le Olimpiadi del 1960. Fu il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi ad aprire ufficialmente i giochi la sera del 24 agosto 1960. Proclamo l'apertura dei Giochi Olimpici di Roma, celebranti la 17ª Olimpiade dell'era moderna. Dal 25 agosto all'11 settembre, 5.337 atleti in rappresentanza di 84 nazioni si affrontarono in appassionanti gare che sono passate alla storia per le mitiche imprese di Abebe Michila nella maratona e di Livio Berruti nei 200 metri. Berruti sorpassa le vittime della forza centrifuga. Un augurale volo di colombi e la vittoria. 20.05. Per due volte nello spazio di due ore, Berruti ha ripetuto il tempo del record mondiale. L'Italia era in pieno boom economico e le Olimpiadi contribuirono a lanciare nel mondo l'immagine di un paese che viveva un notevole sviluppo sia dal punto di vista economico che da quello sociale. Era il 15 giugno 1955, quando il Comitato Olimpico Internazionale, riunito a Parigi, scelse Roma come città ospitante delle 17ª Olimpiadi. Le altre città candidate erano Losanna, Detroit, Budapest, Bruxelles, Città del Messico e Tokyo. Roma ebbe la meglio nell'ultimo ballottaggio contro la città di Losanna. Fu un'edizione importante per la storia olimpica perché gettò un ponte verso lo sport moderno. Per la prima volta le immagini delle gare vennero trasmesse in TV in tutta Europa, con la Rai che produsse più di 100 ore di trasmissione. Alla fine dei giochi, l'Italia si aggiudicò 13 medaglie d'oro. Per le Olimpiadi del 1960 furono spesi a Roma 64 miliardi delle lire di allora. Oltre allo stadio, nacque il villaggio olimpico con i suoi 1.800 appartamenti, ma anche il nuovo aeroporto Leonardo da Vinci e poi la Via Olimpica, il viadotto di Corso Francia, il Palazzo dello Sport all'Eur, il velodromo, il Palazzetto dello Sport, la Piscina delle Rose. Accelerazione impetuosa, ma priva di un disegno strategico complessivo, come osservò l'architetto e critico Bruno Zevi. Gli impianti sportivi e la nuova viabilità comportavano l'innesto arbitrario, osservò, di un piano settoriale in una città non pianificata. E tuttavia il ritmo di crescita dell'economia nazionale fu notevole in quel felice biennio 1960-1961. Per una volta fu l'Italia a guidare la classifica internazionale, con una crescita dell'8,4% contro il 4,5% della Germania e il 5,5% della Francia. Nel 1962 l'asticella si arrestò al 7,8%, tassi di sviluppo mai più realizzati con tale continuità e progressione. Era l'Italia della dolce vita, immortalata nell'omonimo film di Federico Fellini con Marcello Mastroianni e Anita Ekberg. Marcello, where are you? Where did it go for that milk? My goodness! Marcello, come here! Hurry up! Abbiamo in linea lo storico Vittorio Vidotto, che insegna storia contemporanea all'Università La Sapienza di Roma e autore del libro Roma Contemporanea, pubblicato dalla Terza. Professore, grazie prima di tutto per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avermi chiamato. Lei dedica un apposito capitolo del suo libro a descrivere la Roma degli anni 60, la Roma delle Olimpiadi. Ecco, che Roma era quella di 50 anni fa? Beh, innanzitutto è una città, io penso, in grande trasformazione, che però usciva da un periodo relativamente buio. Una città vivace dal punto di vista culturale, soprattutto in alcuni settori, quello direi del cinema innanzitutto, che ha portato la cinematografia italiana all'avanguardia con generi nuovi come la commedia all'italiana e con una serie di capolavori, se pensiamo che del 1960 è appunto La dolce vita di Fellini, un ritratto che è insieme un ritratto della città, delle inquietudini della città e di alcuni aspetti della sua classe dirigente, ma è anche un ritratto della nuova architettura che cominciava a abitare la città. Ci sono scene ambientate nei nuovi quartieri, soprattutto del Tuscolano, Piazza Don Giovanni Bosco. Nel frattempo Roma da alcuni anni ormai si apparecchiava per le Olimpiadi. Sì. Quindi c'era una serie di trasformazioni significative che variano in molti settori, perché gli investimenti vennero fatti in chiave prevalentemente strutturale, infrastrutturale. Mm-hmm. In quegli anni venne progettato e realizzato l'aeroporto di Fiumicino, per dire, okay, nonché una serie di interventi nel tessuto urbano che ancora i cittadini di Roma conoscono: il sottopasso del Muro Torto, il viadotto di Corso Francia, il completamento dell'euro, tutta una serie di elementi di grande significato, ma io credo che poi un significato complessivo, simbolico, è forse ancora più importante, nel senso che le Olimpiadi, in virtù di un duplice meccanismo, quello di utilizzare gli spazi archeologici per alcune gare e quello di offrirsi per la prima volta alle trasmissioni televisive, recupera quella Roma fascista che aveva costruito gli spazi monumentali del fascismo intorno agli spazi archeologici e dunque riabilita in qualche misura o comunque attenua quel significato che per molti ancora quegli spazi avevano, gli uni deprecandolo e alcuni invece salvandolo. Quindi c'è questo, Roma diventa una capitale veramente internazionale in quell'occasione. E diviene internazionale come capitale italiana, non solo come capitale religiosa, qualifica che non aveva mai perduto, peraltro. Lei ricorda poi successivamente nel suo libro che subito dopo le Olimpiadi ci fu un'altra fase dello sviluppo della città, una fase, diciamo, dallo sviluppo controverso, ineguale, come mostrò il fallimento del piano regolatore. Ecco, da allora che direzione ha preso lo sviluppo economico e sociale della nostra città? Ma un elemento sempre trainante è stato quello, diciamo, della edilizia. Il piano regolatore nasceva, però non bisogna dimenticare alcuni settori di attività industriali di punta, soprattutto nell'elettronica e negli armamenti, che già si facevano sul versante della cosiddetta Tiburtina Valley, cioè lungo l'asse della Tiburtina, e poi in realtà gli investimenti industriali si facevano con la tutela della Cassa del Mezzogiorno, che aveva esteso i suoi confini fino alla zona di Pomezia. Quindi in realtà, se guardiamo un'area metropolitana più grande, Roma ha anche uno sviluppo industriale che investe proprio quegli anni, però il motore interno più forte era quello della edilizia pubblica. In realtà negli anni 60, alla fine degli anni 60, comincia a spegnersi la forza di sviluppo dell'edilizia privata per avere invece una grande fase di investimenti nell'edilizia residenziale pubblica. È il momento della nascita di queste specie di new town, di cui, diciamo, l'esempio più significativo, come cronologicamente anche iniziale, è quello di Spinaceto. Si costruisce Spinaceto, una città completamente nuova lungo la via Pontina, fra la Cristoforo Colombo e la Pontina, che appare ai romani di allora come una sorta di corpo interamente estraneo. E poi i romani si abitueranno ai grandi complessi edilizi dell'edilizia residenziale pubblica, che da Tor Sapienza al Corviale cominceranno a cambiare significativamente il paesaggio urbano delle periferie. Dal punto di vista sociale, Anzitutto si arriva ad un governo della città diverso con il centro-sinistra, però come è sempre accaduto nella storia di Roma, il piano regolatore segue e non anticipa le trasformazioni cittadine. Anzi, si può dire che quel piano regolatore, quando nasce di fatto nel 62, poi praticamente entra in vigore nel 65, già una serie di realizzazioni si sono compiute. Il piano regolatore prevedeva uno sviluppo direzionale della città nei quartieri est lungo il cosiddetto sistema direzionale orientale, mai realizzato, mentre era ormai compiuta e compiuto lo sviluppo verso sud e sud-ovest con la trasformazione dell'euro nel nuovo centro direzionale della città. Quindi, paradossalmente, il piano regolatore neppure riesce a stabilizzare il già accaduto. Per di più, quel piano regolatore prevedeva uno sviluppo demografico a 5.500.000 abitanti, cosa mai accaduta, perché a partire dagli inizi degli anni 70 la popolazione di Roma tende a stabilizzarsi e semmai gli incrementi che si hanno, e sì che hanno magari soprattutto negli ultimi decenni, sono dovuti a un'immigrazione dall'estero, mentre c'è un forte spostamento verso l'area metropolitana dove gli alloggi e gli affitti costano di meno, per cui si sviluppa in proporzione molto di più Guidonia di quanto non si sviluppi Roma.